Costa e sta qua stasera. Vogliamo ringraziare chi ci ha voluto qui una volta di più, che ha organizzato per il settimo anno l'Anti MTV Day contro ogni forma di musica commerciale. Questa è gente strana, è Zenith Boss. Ci sta Darei là domani in Sicilia, ragazzi. Soundcheck. Prova microfoni, questo è il sound della metropoli. Siamo qui oggi a Bologna, potremmo essere là domani in Sicilia, ragazzi. Oggi qui abbiamo la Sicilia, non c'è Bologna. Oh, un sound caldo, due parole spese bene. La luce. Direttamente dal profondo sud, la Palermo Posta sta qua stasera. Vogliamo ringraziare chi ci ha voluto qui una volta di più, che ha organizzato per il settimo anno l'Anti MTV Day contro ogni forma di musica commerciale. Questa è gente strana, è Zenith Boss. Ci sta Roberto Vitrofonico dall'altra parte. Ringraziamo Jimmy, simpaticissimo, Mirdio e tutti i porci. Per quanto riguarda le voci, per noi potremmo anche cominciare. E allora, a tutti i presenti, a tutti gli occupanti, a tutti coloro che sopportano e supportano il nostro progetto da 3 anni e mezzo, questa è la nostra personalissima cartolina sonora dal profondo sud, dalla capitale della Terronia. Ehi! Oh, com'è? E come fa? Tutta riunita, passanata, vena azzurra. Una mare birra e Sakura sempre sbirra. Sakura, tocco sempre. Sakura, cuccuparre. Agumana, l'omerta. Se devi mantenere i segreti di un quartiere, quegli affari loschi che riempiono le tasche di pochi eletti in mezzo a tanta gente onesta che conta solo su di sé. Sei sogno pale in metano, vegno una buceria. Se passo una palei, mo bene gente si canzia. Su giù palei metano, figura precarietà. Tanti problemi sì, però palei miserie ha. Mille cristiani se moro ne famo, c'è mafia camorra corrotta in fame, ne leva la vita, l'amore giova, giù tu scassa una minchia, scusa se sbaglio, sinché una bucca promessa minchiata, cuccio va sotto sito sono occupato, casa occupata, famiglia sfollata, che ha avuto una rata e carata inculato. Vengo da una zona denominata Veneta, una casa occupata, è quello che ci spetta, per tutti me compreso, la domenica è una festa, se il Palermo vincerà. Sì, ma in settimana piango solo, qua va sempre peggio, tu mi parli Coppa UEFA, la mia paizza su pareggio, che per me significa un posto di lavoro che non mi tocca libertà. Se sul mio pale in metano e bagno ramaciune e per antiche fumo mare ciavallo ciaidone. Sul mio pale in metano e nasceva ballaro. Palermo in Coppa UEFA sì, ma lavoro non ne ho. Giù a Palermo siamo uno contro l'altro e facciamo il loro gioco, perché da divisi ci comandano con poco. Facciamo un'assurda gara, chi è più furbo, chi è più forte, mentre il vero nemico è là. Sì, che se la sta ridendo mentre stiamo a litigare, e come degli idioti siamo andare anche a votare, credendo a degli imbrogli di politici e mafiosi che aumentano solo povertà. Sei signor pale in metano, bagno una bucceria, mi caro fuori case, marro carabona gira. Signor pale in metano, però pale in mumma vuole no, mi caro fuori case, me le varo polarcone. Se sogno pale in metano, sfruttate il campo mare, ma piglio chi catanese, calate ai suo principale. Distrutturano le case in centro per i magistrati, politici, studenti, dottori e avvocati. Ma quale rinascita, quale Palermo nuova? Allo zembe di la verità. Sogno pale in metano, mamma zucco e gay. A me ne sei futti hanno sissi na mia età con mamme. E sogno messinese, e sogno giapanese, e sogno agricentino, magari catanese. E ne sei siracusano, ragusano, nisseno, siciliano e ne vado fiero. Oh, oh. A tutti i cani, che come si dice da sotto, un cane usciuto patuna. Oh. Oh no! Allora, gente strana fosse, Zenith fosse qua. Robby, la scaletta non era proprio questa. C'è. Ma ad ogni modo, improvvisando tutto ciò che ne viene davanti. Questa è una vera e propria giungla di cemento, per cui il sottoscritto, stanco di attaccare, sta in difesa. Quando chiudere una canna diventa un'impresa. Nessuna scusa, per favore, la porta è chiusa. L'ennesimo processo abbia inizio, il sottoscritto è sotto accusa. Resto sveglio, anche se guardo un punto fisso, pronto per il viaggio di ritorno dall'abisso. Questo è il compromesso, io vivo se mi stresso. Vittima, carnefice, giudice di me stesso. Sarò io coi miei limiti, con i miei doveri. Mi vedevi ridere contento fino a ieri, ma è già passato un secolo, gli eventi si rincorrono, il tempo viene meno, quindi i conti non mi tornano. Vedi, guacciane, questa è la mia realtà. Sono un soggetto affetto da cronica discontinuità. Perché tranquillo non lo sono mai stato. Se va male sto di merda, se va bene libero e saltato. Male il profondo, so cosa voglio. Fidarmi di me, l'ennesimo sbaglio contorto. Nella notte misteriosa, risorto nella rabbia come mia fedele sposa. Basta, ho parlato troppo adesso. Basta, cercherò l'impatto, lo scontro. E sarà cura, caco, fuoco. Un zio aca e un si può pulire la bottichina. Non chiede embriaca. Sopra state raca un fuoca. Animali in mutamento, in continuo movimento. Il passo è lento, forse è troppo lento. A tempo, dove? Nella giungla di cemento. Come un ragno che lento tesse la sua tela. Per alimentarsi deve uccidere ogni sera. Come insetti microscopici che innalzano calici. Virus di sta specie di pianeta di carnefici. Cianci, cianci, chi mi incacce, cianci. Punate l'arance, che do cacca anzai se mance. Cianci, cianci, io ti munne e tu ti mance. Che tu camera, se ti lo torna e tuora cianci. Nel regno che il silenzio specchia nello stagno. L'asso di Firenze e l'attrazione al suo guadagno. Lentamente il ragno la sua preda sto osservando. Alla cena fugace piano si va avvicinando. Ad opera l'ingegno, l'astuzia, la sua forza. E spesso bagna pegno la libellula commossa. Appariscente se l'è cercata. Il ragno che non dà nell'occhio mo se l'è mangiata. La divorata, questa è la vita. Chi paga dazio e la farfalla incambia la giornata. E invece il ragno che meno appare non cura le sue vesti ma pensa solo a campare. Nella giungla di cemento basta, ho parlato troppo adesso. Basta, cercherò l'impatto, lo scontro. E sarà cura, caco, fuoco, un zio aca. E un si può pulire la bottichina. Supra state raca un fuoca. In continuo movimento, il passo è svelto, forse è troppo lento. A tempo, dove? Nella giungla di cemento. Io, come un cane che è morto e non abbaia. Oggi che non è affatto una giornata gaia. Il cielo cade, nuvole basse tipo nebbia. Lo sguardo incattivito, dentro il sangue scorre rabbia. Gelido, brivido sale, troppo caldo. Scavo camminando, senza manco un nervo saldo. Fuori piove, ma è solo pioggia e non fa male. L'asfalto brucia, così riprendo la fiducia in me stesso. Con orgoglio annesso, ammesso e non concesso. Sono represso l'animale male che me stesso perplesso. Appaio buono e sprano come un orso. Vada come vada, in ogni caso nessun rimorso. Chiance, chiance, che mi incacce, chiance. Spunate l'arance, che tu cacca andaste mance. Chiance, chiance, io ti smunne e tu ti mance. Che tu cameraste te lo torna ancora. Chiance, chiance, chiance, che mi incacce, chiance. Spunate l'arance, che tu cacca andaste mance. Chiance, chiance, io ti smunne e tu ti mance. Che tu cameraste te lo torna ancora. Chiance, basta, ho parlato troppo adesso. Basta, cercherò l'impatto, lo scontro. E sarà cura, caco, fuoco, un zio aca. E un si può pulire la bottichina. Sopra state raca un fuoca. Animali in mutamento, in continuo movimento. Il passo è svelto, forse è troppo lento. A tempo, nella giungla di cemento. Oh, oh. Oh, oh. È aggiunta. Ok. Dedicata a tutti i sud del mondo. Stiamo a sud che sta vita, dollari e cavere, aero non se può più campa. Aero abitata le ambenta, ad non c'è sta fatica. Disoccupati, sottoccupati, crotati, abbandonati, emarginati dalla società, come mamma fanno insieme. si mena pule paisa. Tani ma voglio sta con lo spaniella in bocca, ma ne pinta sa che cammina malera in te di questa città. Noi ci mandammo mondo, ma mondo già sacca. Dinte panna spasso sola da signora. Dinte speranze na famiglia, ca fatica vo trupa. A sud, a sud, a sud de questa vita ci sarà del romba all'alzata. A sud, a sud, a sud de questa vita ci sarà del romba all'alzata. Nato un sud, mentre dico l'impalemo, così sentanno impegno e così sperano pace e taino nata a sud. Ci vivo buono ca, e una fortuna ca nascivo una terra era precarietà. Scendora ca se senta gente ca vuscia, ca un travaglio non manta ma faccia la democrazia. Cammino e musica, su mercato cabania. La riconosco, sta terra è proprio la mia, ci sui picciotti. Cata salutano e terra spiacciano, e ci su chi te. Cade visa ca controllano, ma tu prova a controllare il suo sole. Quanto calore, quanto surure, quante sorrisi ne guaitiere. Oggi come ieri il suo sole ne guaria. Vai tiri Napoli, arriva fino a Bucciria e vivici. E una lasciare mai, sta terra chi ne concia attenzione. Sta terra chi ne guaitiri con vivici. E una lasciare mai, nata a sud e siamo buoni ca. Stava a sud, ne trovo sempre ca. Stava a sud, a sud, a sud, a sud, da sud e che sta vita ci sarà terra romba la sala. Sud a sud a sud e che sta vita già si è girati alla strada mai. Sud a sud a sud e che sta vita quasi respira e sfruttata. Sud a sud a sud e che sta vita e vincere di io che non sempre mezzana stata. Sud, noi siamo lo sud, noi siamo curtenira, noi siamo lo sud. Sud, noi a Gelu sud, mangiamo pane sulle neve, bevo mare per digerire a sud. Sud, noi siamo lo sud, noi siamo clandestine, noi siamo lo sud. E tu che vedi da fuori fare bello sud, c'è un capro che hanno contenente, son sanno lo sud. Ma! Mafia camorra andrangheta e sacra corona unita, non è solo questo il sud, anche se si fa male la vita fa resistere. E le tue radici nel suo fango amo il sud. A sud c'ho me sangue, stiamo a sud. A sud è che sta vita, con l'aria e cavere, aro non se può più campa. Aro abitata le ha inventato, non c'è sta fatica. Sta terra grande per tutte quante, per tutta gente, per rubi fratemi grande, per cuna veniente. Sotto pane sono fatto con una veriente, con una cuore. Sta terra è bella, da muccia amore fra tanto rulure, da muccia amore fra tanto surure, da muccia amore. A sud, a sud, a sud e che sta vita ci sarà terra romba all'alzata. Sud, a sud, a sud e che sta vita ci sarà terra romba all'alzata mai. A sud, a sud, a sud e che sta vita quasi respirare asfruttata. A sud, a sud, a sud e che sta vita e mi giri l'indio con menzanassata. Sempre menzanassata e vale per tutti i sud del mondo, compresa una regione denominata Terronia, situata in un profondo sud al confine tra il sud Italia e il nord Africa, denominata Sicilia. E questa è la Zenith Posse, che ve ne parla in termini ragazzi più espliciti. Allora, noi siamo di Palermo, del quartiere Zen di Palermo. E qui stiamo a nostra voce in duoco, no? Ehi! Bella Sicilia, terra antica! Bella Sicilia, chi ne c'è senza fatica? Bella questa terra, il suo sole, il suo mare! Ma senza travaglio un po' più ira tu mannare a piede! Bella Sicilia, terra antica! Bella Sicilia, chi ne c'è senza fatica? Bella questa terra, il suo sole, il suo mare! Ma senza travaglio un po' più ira tu mannare! Era un terra sbatto, poi te c'hai un braccio camesata! Veniva in ospedale per aspettare mezza innata! A sanità va male, quanta gente che ha morto! Io vi ricordo lotta e manca antica e c'hai un moto! Sente ca! Vieni con ciò facciamo chiù. No no, capo dell'otto ma me sei bevoro tu. Un governo se ne fotto non posso più campare. O pago su te le imposte. Lotto chi compagni la me buci non è sola. Lotto un po' più sbirro manganello visuala. Lotto picchi voglio che Sicilia va a canciare. A va a canciare e vi spiego perché. Bella Sicilia terra antica, bella Sicilia chi ne gente che fatica. Bella è sta terra, è su sole, è su mare. Ma senza già voglio un po' più ir a giovannare. Bella Sicilia terra antica, bella Sicilia chi ne gente che fatica. Bella sta terra, è su sole, è su mare. Ma senza già voglio un po' più ir a domandare. Utichi la piscina si dice che manca l'acqua. No. Vatti in mare che a me bella Sicilia stecca. Se mi prima a lamentare ne, ma facciamo scorrere. L'acqua un bene, cattivo puro fare ridere. Sentimo poco tu dici bella Sicilia. Dopo non tu fa niente manco senza Rosalia. Amica mia, che non si schifia. A tale arista bella Sicilia mia. Ma non voglio che non tu parla male, rame e pierda. Io ci sogno nato, cresciuto e vissuto. A storia male ci un bello poco a capivo. Ma sogno puro privere di chi tu che pensavo. Ti dicono male ritto se tu fai con chi cosa sbagliata. Sta gente ora noi da nostra vita l'ha caputa. Chi se la contra detta, chi se la calpestata. È troppo cristiana se fanno un'idea sbagliata. Aiutalo compare all'amico siciliano. Che non ci avvezzava che manco picciole in tema. Ne sogno estraneo, ma sogno siciliano. E il vaffanculo me lo becco dallo stato italiano. Bella Sicilia Sicilia terra antica, bella Sicilia chi ne gente che fatica. Bella è sta terra, è su sole, è su mare. Ma senza già voglio un po' più ir a domandare. Bella Sicilia terra antica, bella Sicilia chi ne gente che fatica. Bella è sta terra, è su sole, è su mare. Ma senza già voglio un po' più ir a domandare. Salutamo, rispetto buitamo, po' frate più vicino. Fino a chi tu più lontano. Acido, cinico, critico, il saluto è strano. Senza la bate faccio, passate mano. Salutame compare, salutame compare. Mare, salutamo solo in mezzo cielo, luna mezzo mare. Cristo semo e Cristo ve cantamo. E con rispetto salutamo. Salutamo e rispetto buitamo. Fu frate più vicino fino a chi più lontano. Acido, cinico, critico, il saluto è strano. Senza lavate faccio, vasate mano. Salutame compare, salutame compare. Salutamo solo in mezzo cielo, luna mezzo mare. Cristo semo e Cristo ve cantamo. E con rispetto salutamo. Oh oh. Il prossimo, il prossimo pezzo, voi sapete, per dimostrare il nostro amore, c'è la divisione in classi, tipo, come dire, c'è la classe operaia, la classe contadina, classe e poi c'è una classe chiamata... Di merda, c'è una classe di merda, bravissimo, vedi? Perché vale per tutte le divise del mondo, da sud a nord, passando per ogni centro di ogni fottuta nazione. Falla Paiter e Roberto contro ogni forma di sbirrame. Liberamente ispirati. Come fa? Non lo gridiamo perché lo sentiamo dire. Ulkopsar Bastar. Ma non lo gridiamo perché non vogliamo sbirri. Ulkopsar Bastar. Non lo gridiamo perché lo sentiamo dire. Ulkopsar Bastar. Ma non lo gridiamo perché non vogliamo sbirri. Fanno la sfilata quando entrano allo Zen. Si sentono fighi, si sentono Batman. Si sentono al di sopra delle nostre aspettative. Pensano che siamo noi le onde radioattive. Non siamo noi le minacce negative. Non siamo noi le presenze nocive. Non siamo noi quelli che cercate voi. Siamo noi. Siamo noi eroi. Hip hop serio, zenitosse, rap da Palermo. Raccontano disagi che qui durano in eterno. Non amiamo lo Stato o il fascismo moderno. Fasci polizia, dico spoglia, sai che inferno. Pantaloni stretti, petti in fuori, testa arrasata. Stivali in cuoio basco pronti per una giornata di merda, di persecuzione. Fasci pezzi meta, schiavi della costrizione. Un suono dentro il cuore che spacca la mia vita. Un tuono in testa, chi vuole che il grilletto tra le dita spari un colpo più forte. Ancora è morta la fiducia che lo sbirro mi ispirava. Oh! Ulkopsar Bastar. Non lo gridiamo perché lo sentiamo dire. Ulkopsar Bastar. Ma non lo gridiamo perché non vogliamo sbirri. Ulkopsar Bastar. Non lo gridiamo perché lo sentiamo dire. Ulkopsar Bastar. Ma non lo gridiamo perché non vogliamo sbirri. Il primo sbirro ce l'ha in tasca e si chiama cellulare. Il secondo è sotto casa che ti vuole controllare. Il terzo e il quarto preparano un verbale cercando un pretesto per poterti inculare. Ma ne capiteri solo picchi nascisse con una divisa misa tira chi tu con esiste tu. Ma ci pensai sono un tasso un taisse. Per un stipendio pure a dignità tu ci la stesse. Rispetto a noi sarai sempre un gradino sotto. Carabiniere, finanziere, poliziotto. Povero illuso, succube frustrato. Se pensi di combattere la mafia con lo Stato. La mafia vende quello che lo Stato compra e non la può ammazzare perché è la sua stessa ombra. Se un cani mannarette metta musa e ruola, picchi sta parola vale chiurato pistuola. Ulcopsar Bastard, non lo gridiamo perché lo sentiamo dire. Ulcopsar Bastard, ma non lo gridiamo perché non vogliamo sbirri. Ulcopsar Bastard, non lo gridiamo perché lo sentiamo dire. Ulcopsar Bastard, ma non lo gridiamo perché non vogliamo sbirri. Giorni di rabbia e di lotta, giorni dove non c'è polizia che complotta. No, no, no. Giorni di malinconia, giorni dove è meglio se non c'è la polizia. Cade la pioggia sulle case e sulle anime, cade nascondendo il volto, il sangue e le lacrime. Di gente che costantemente si sente niente. Gente che davanti alle aggressioni indifferente, non è assolutamente no, ma si ribella davanti a chi la manganella. No, uccidi fascia armato, staremo bene senza Carlo Vive e te massacro se mi parli non violenza. Ulcopsar Bastard, non lo gridiamo perché lo sentiamo dire. Ulcopsar Bastard, ma non lo gridiamo perché non vogliamo sbirri. Ulcopsar Bastard, non lo gridiamo perché lo sentiamo dire. Ulcopsar Bastard, ma non lo gridiamo perché non vogliamo sbirri. E non vogliamo sbirri. No, o ne vogliamo ne un tabanna. Suga. Il motivo è semplice: gli sbirri, quelli che da sempre stanno al servizio dei padroni e dei potenti, e quelli che da sempre tutelano uno Stato falso che deve portare avanti un concetto, quello della legalità. La stessa legalità che continua a imprigionare quotidianamente padri di famiglia per quelli che chiamano micro reati o micro criminalità. Molto spesso in qualsiasi quartiere del sud Italia si può trovare che un padre di famiglia, per campare la stessa, è costretto a spacciare, a passare il trascorso dei suoi giorni dietro le sbarre. E io, un muscuidavo, nasce misi carcere, 10 anni vita ce la stavo. Un muscuidavo, quanto voto ci pensavo. I bici ridini che me mughiere che canciava. Dice che sentiva una mano sopra di essa. L'anima tremava e una guai d'infame che m'arresta senza pietà. Nessun perdono da parte dello Stato perché ha avuto solo la miseria come dono. Cure strilla, curre fuete. Io mi scoraggio così cavo la sua ite. Un mu meritava, ma capito a mia. Mina d'ugno ora rinza macchina la polizia. Ora che diventavo una fotografia, nell'album meritente cure tua che così sia. Io prima comincio, prima ne sci tuaco. 24 ore ruappa, bruciava rinza un fuoco. Senza aria, senza sangue, a desagio come a ciure in mezzo fango. E me pace, e me mace, scorre tutta vita, na di 5 mece quace, sai. E marre qua i duri, quando era nico, menza assata, sempre con stesso amico. I scolo ne voliava, e qua non ne calava. Me mace che chianciava, e me pace un ciavagliava, e me rissi. Figlio mio, di rimuovere te che già ne fatta assai, fatica per crescere. Aiutami tua mia, che oramai sei grande. Uvire come sa diventa o ma 13 anni sì. Dove è finita la mia libertà? In questi giorni precari faccio fatica a riconoscerla la libertà. Imprigionato dalla legalità, dove è finita la mia libertà? In questi tempi precari faccio fatica a riconoscerla la libertà. Imprigionato dalla legalità. So così ma ancora non capavo buono. Dice che siamo tutti sis. Sotto il sis, sotto un suono. Perché c'è sempre qualcuno. Casa sette è comanna. Ed ogni c'è degrado, c'è un governo che inganna. E noi c'è che canciamo, che ne lamentiamo. Noi c'è che ne sciarriamo e che alla fine ne accollamo. Masculid, femminiad, ranno e pure vicerid. Ne faceva guerra, noi c'è poveriate. Ma faccia una divisa, perché ti piace un fierro. Mi piace pure a mia, ma meglio l'acio, caspirro. Quando ho bisogno, me meglio compagno, che tu canne arresta e canne fa nittare sangue. Sangue ne fa nittare sangue. Sangue ne fa nittare sangue tutto l'anno. Sangue i tagli e cane sangue. Sulle lacrime dei nostri vostri figli annegheranno. Sangue ne fa nittare sangue. Sangue ne fa nittare sangue tutto l'anno. Sangue i tagli e cane sangue. Sulle lacrime dei nostri sulle lacrime annegheranno. Dove è finita la mia libertà? In questi tempi precari faccio fatica a riconoscerla la libertà. Imprigionato dalla legalità, dove è finita la mia libertà? In questi tempi precari faccio fatica a riconoscerla la libertà. imprigionato dalla legalità. Sarò spietato come il tossico che cerca la sua dose, violento come il vento che si scaglia sulle rose, rabbioso come il sole che sbatte sulle case, come chi a fine mese stringe cinta, pugni e denti, chi resiste tra stenti e lamenti, chi passeggia tracciando orizzonti e chi crede ancora al felice e contenti. Sto vivendo e so quello che farò, quanti fratelli avrò, quanti ne perderò. Sto vivendo e so in cosa crederò, e ciò che mi darai e ciò che ti darò. Sto vivendo e so dove camminerò, tra i disagi che ogni giorno affronterò. Sto vivendo e so in cosa crederò, io sto vivendo. Io sto vivendo, ma dov'è finita la mia libertà? In questi tempi precari faccio fatica a riconoscerla, la libertà. Imprigionato dalla legalità, dov'è finita la mia libertà? In questi tempi precari faccio fatica a riconoscerla, la libertà. Imprigionato dalla legalità, dov'è finita la mia libertà? In questi tempi precari faccio fatica a riconoscerla, la libertà. Imprigionato dalla legalità, dov'è finita la mia libertà? In questi tempi precari faccio fatica a riconoscerla, la libertà. Imprigionato dalla legalità. La stessa legalità che da svariati decenni vuole che diversi siciliani vadano via dalla propria terra per andare a trovare, nella maggior parte delle ipotesi, sfruttamento in qualche fabbrica fottuta del nord. La stessa legalità che è applicata in altri sistemi, in altri mondi, in altri conflitti che nemmeno lo possiamo immaginare, produce da svariati decenni l'immigrazione di diversi fratelli emigrati africani che arrivano sulle nostre coste, a Lampedusa, quasi quotidianamente, a trovare come accoglienza i CPT, centri di permanenza temporanea, veri e propri lager di Stato, per la chiusura di ogni fottuto lager di Stato. E dedicandola a tutti i fratelli, a quelli che partono dalla Sicilia, a quelli che in Sicilia arrivano. Oggi, per fortuna o purtroppo, è soltanto un altro fottuto giorno. Sì. Un altro giorno in cui il sole splenderà per chi si sveglia senza assilli e sa già che lui ci sarà. Oggi è un'altra notte in cui la luna irradierà i pensieri di chi la sta guardando e si domanda che farà. Oggi è un altro giorno nel traffico di sta città. Oggi è un altro giorno tra idiozia e pubblicità. Oggi come ieri, tra mille pensieri, tra scudi e paranoia che ci fanno sempre più seri, che ci mettono in guardia, ci fanno stare attenti a chi oggi sopravvive campando solo di stenti. E sbagli, caro amico, a sentirti scalognato. C'è chi di te sta peggio, guarda sta frate immigrato, ca campa male cuscanto, ca era rera venumicia, suranno sutto sulle già vaglia la vanno vita. Ma la dignità non l'ha smarrita, questa è la sua dote, in un mondo governato da monete e banconote. Questa vita ci regala prospettive, nasci povero, trova le tue alternative, trovi bastardi che provano a comprarti, pronti ad usarti, ti diranno di adeguarti. Ma è così sulla terra e non si scappa, chi alla fede si aggrappa, cucurra in terra, scuoppa. Mensa gente favusa, ca speranza anni scippa, i bruciasse come ligna, vampe San Giuseppe. Picco se passo tempo, picco tempo un passa mai, picco un po' il suffisso, vado solo un mense guai. Picco sotto patuni ce muore, picco un cevolino, ma se la va a cullare. I miei frate preparano valigia e python, i miei frate non sanno manco sarre torna a noi. I miei frate lassano cuore in nassa terra, ma casa e buoni razza, per combattere sta guerra. I miei frate che te carrai stanno qua, i miei frate che te calze chiamci una città. I miei frate i canni hanno coraggio e ce ne vuole di coraggio. Con tutti i rulura come a supportare, con tutti i rulura come a rispettare, volendo arrestare finiamo a partire, arrestami stessa e volemo canciare. Con tutti i rulura come a supportare, con tutti i patona come a rispettare, volendo arrestare finiamo a partire, arrestami stessa e volemo canciare. I miei frate sfruttate, rude e sino abbandonate, quanto ne hanno muruto e quanto ne hanno sbarcato nei loro sogni affondati, e quando sono arrivati come animali ammassate, come animali lassate. I miei frate lontano che ancora non hanno partuto, che sono stanche la fame e venne a chiedere aiuto. Poi ogni parola che penso, ogni parola che scrivo, poi ogni nota un cristiano che fu nomare per vivo. Acqua luce, fango e terra, lontane mie vicine è la realtà che mi sotterra. Acqua luce, fango e terra, lontano i miei vicini è la realtà che mi sotterra. Salam aleikum, ascolta l'eco, le grida di egoismo di un popolo bieco, meschino e cieco, e esente da calunnie, sono se in chiesa mi reco e parlo poco, fratello mio. I miei frate preparano valigia e Python. Non sanno manco sarre toi in noi. I miei frate lasciano cuore in questa terra, ma casa e buoni braccia per combattere questa guerra. I miei frate chi te cattere stanno qua. I miei frate chi te case cancia una città. I miei frate vere che hanno coraggio e ce ne vuole tanto. Tu appassai coraggio a talare Lampedusa e a pensare fosse un miraggio. Niger, Ghana, Sudan, Darfur, profughi smarriti dentro la capanna mur. Uomini di governo, moralisti e ben pensanti, che cazzo ne sapete dei problemi dei migranti? La legge posti fini rimarca quei confini e vi credete superiori nel chiamarli clandestini. Questa è la nostra Italia, benvenuti da chi opprime, da chi sputa su chi sfrutta, integralista il suo regime. E ti starei chiedendo qual è il male minore, e mentre stai pensando nei CPT la gente muore. Ma quali c'è accoglienza e con le civiltà? Tu mi parli di progresso, ora zitta e senti il caso. Chi scappa da mille problemi ed è perseguitato politicamente non solo viene rimpatriato ma è pure picchiato per un delinquente. Parlate di sicurezza giustificando conflitti di razza, bastardi discriminatori, voi vi comportate come chi li ammazza. Ora che il sole splende, ogni lacrima asciuga. Ora troppi fratelli dalla propria terra in fuga. Ora che cerco un riparo dall'idea che sia un incubo. Ora, ripeto ora, adesso che la rabbia si afferra allo stomaco. I miei frate preparano valigia e Python. I miei frate non sanno manco sarreto in noi. I miei frate lasciano cuore in questa terra, ma case buoni razza per combattere questa guerra. I miei frate che te carrestano qua. I miei frate che te case chiancia una città. I miei frate vere che hanno coraggio, sai, e ce ne vuole dei coraggi. I miei frate preparano valigia e Python. I miei frate non sanno manco sarreto in noi. I miei frate lasciano cuore in questa terra, ma case buoni razza per combattere questa guerra. I miei frate che te carrestano qua. I miei frate che te case chiancia una città. I miei frate vere che hanno coraggio, e ce ne vuole tanto. Tu assai coraggio. Assai coraggio. Ok, ce ne vuole tanto, troppo, di coraggio, perché la resistenza concreta non resta soltanto uno slogan affisso su qualche muro. Questa è soltanto una storia di chi cammina pensando al contrario. Robby, la base è un po' più bassa in monitor, per favore. Notte di luce fa buio di giorno, perché fa più caldo in questo mondo che all'inferno. Tutto va al contrario, niente forza ma timore. Lotto perché il silenzio faccia meno rumore. Quante volte ho creduto che non esistesse cura, che mettesse fine a questa mia paura, che mi perseguita da quando sono nato. Perché vedo il mondo solamente in modo opaco. A quanto vivere sia difficile, o quanta gente incomprensibile, o quanta ipocrisia ci circonda, o quanta merda più potente tu credi che risponda. Quanta libertà ci sarà negata in questa vita. Io non voglio essere di una mano le dita che uso per contare solo se necessario. Voglio camminare pensando al contrario. Camminare pensando al contrario. Camminare imparando dagli errori che riparo. Camminare pensando al contrario. Con un pensiero fisso mettere fine a sto calvario. Camminare pensando al contrario. Camminare imparando dagli errori che riparo. Camminare pensando al contrario. Con un pensiero fisso mettere fine a sto calvario. Le note, le pagine di questa storia cuba. Non voglio che la gente guardi il mondo e si illuda che la libertà la trovi attaccata sul ramo. Se siamo pure schiavi dell'aria che respiriamo, e poi muori come Carlo sotto un colpo di uno sbirro maledetto. Muori senza che nessuno prima l'abbia detto. Di violenza non ne parli, la fai se è necessaria, perché la violenza spesso arriva dal denaro. Questo sono io che mi sfogo con i testi, perché disprezzato dai tuoi se protesti. La nostra distruzione, aspetta che ti racconto come sta la situazione. Qui c'è gente che resiste pure con semplici gesti, orme contraddetti dalla merda che tu pesti. Ma ti arrivano maledizioni pure dall'alto, dove le contraddizioni te le servono su un piatto. devastati, pensieri omologati e mondi disegnati da concetti immaginati da persone con cervello in distruzione che cercano la morte di chi vuole rivoluzione. Siamo scatole che racchiudono tutti i bisogni in un mondo avaro che copre i nostri sogni. Siamo pagine che non raccontano ma fanno storia, che si amano tenendo viva la memoria. Camminare pensando al contrario, camminare imparando dagli errori che riparo. Camminare pensando al contrario, con un pensiero fisso mettere fine a sto calvario. Camminare pensando al contrario, camminare imparando dagli errori che riparo. Camminare pensando al contrario, con un pensiero fisso mettere fine a sto calvario. Io oggi non sto bene, oggi che mi costa stare insieme alle gonfie vene del mio collo. Barcollo ma non mollo, come disse qualcuno. Non mi aspetto niente, sono in cerca di nessuno. Paranoico, a tratti pure schizofrenico. Io non so dove abito e sto attento quando gravito in zone sconosciute ai miei occhi. Qua pregiudizi fioccano come in taverna. Divino destino, sono io a costruirlo, lui che mi smonta. Il monte premia a monta tutte le volte che il sole tramonta. Ogni giorno quasi allarga il divario tra una vita stabile e il mio essere precario. Il lavoro nel gioco, per me non c'è fittuna. Voglio fare tutto cose, me ne scordo sempre una. Ma to spittuna, ecca, se ma gritta in sassuaria. Una può fare stare zitta. E chi vorrà zittirci ci sentirà gridare. E chi vorrà fermarci ci vedrà avanzare. Più una vuota sui compagni che caricano su una polizia. Uniti nelle stesse strade per la stessa via. Soffri, ma poi giunge alla svolta. È come ferire dopo aver baciato con la stessa bocca. Quando un sogno condiviso diventa un bisogno, riesco a sentirvi vicini come dita strette a pugno. Come dita strette a pugno. Come dita strette a pugno. Come dita strette a pugno. Gli stessi pugni che purtroppo non si potranno stringere più per colpa di un'ideologia che è diventata una pratica tanto tempo fa e che continua oggi a produrre tante nefandezze. Si chiama fascismo e purtroppo sta sia sulle poltrone di pelle umana in Parlamento che sulle nostre strade. Qualcuno qua dentro, che siete voi a dirlo? Purtroppo non basta quello, né tantomeno le magliettine, né tantomeno la canzone che sentirete tra poco. Queste restano soltanto parole. L'antifascismo militante è un'altra cosa. Si fa stando nei territori, occupando posti come questi e producendo controcultura quotidianamente. A Mirbio! Pazienza, sì, ce ne vuole tanta, perché di questi tempi si sta peggio del 40. Si dice che il fascismo sia finito già da tempo. Io penso ai partigiani, quelli quando fischia il vento. Quando fischia il vento urla forte la bufera, ma vedo allontanarsi sempre più la primavera. In una sera nera, senza stelle e luna piena, soltanto la paura scura di questa avventura. La dittatura avanza, l'inverno ormai è vicino. Io cercherò riparo e poi riprenderò il cammino. Il sol dell'avvenire per me è tramontato. Intanto lotto coi compagni finché non crolla lo stato. Mi scotterà la luce al sol di mezzogiorno e finché sarà estate il freddo non avrà ritorno. Ma adesso c'è la notte, il buio è devastante. Non vedo più nessuno, neanche chi è meno distante. E cerco luce, voglio luce, urlo la mia voce, perché dei coglioni si rispecchiano le luce. Paragone atroce, strappo che non cuce, merda della storia, feccia che si riproduce. E passa il tempo, cambiano le stagioni. Qui va sempre peggio, da Veltroni a Berlusconi. Cosa ne sarà del nostro domani? Se anziché lottare alzeremo le mani. E poi tranquilla a casa che mangiate e bevete. Vi ruberanno l'anima e non ve ne accorgerete. Sta tornando il buio anche se non lo vedete. La storia si ripete, sì la storia si ripete. Picciotte che sentite, picciotte che capite, picciotte che pensate, con la testa ragionate. A gente più potente mangia sopra le nostre vite. Fate comando a parate se ben attunate. Picchi tante sulla gente che per campare la testa abbassano con le proprie mani. Zitto e mu la vostra scava. E poi se mi faccio a me mangio a mezz'ora. Tutta la settima generazione picchiato per fissare scologiato. Io picchiato con colore della visione. Calo messaggio subliminale. La tua palo che stordisce la ricche e cresce vistosamente la differenza tra poveri e ricchi. E sangue davanti tipo paura. Sta musica come cura, lotta sociale come cultura. Con questa verde dittatura. E passa il tempo, cambiano le stagioni. Viva sempre peggio da Veltroni a Berlusconi. Cosa ne sarà del nostro domani? Se anziché lottare alzeremo le mani. E voi tranquilli a casa che mangiate e bevete. Vi ruberanno l'anima e non ve ne accorgerete. No. Sta tornando il buio anche e se voi non lo vedete. La storia si ripete, sì, la storia si ripete. La storia si ripete inesorabilmente. Ancora distinzioni di classe tra la gente. La storia si ripete, lo Stato è troppo forte. E se lo sfideremo pagheremo con la morte. Ma canto con la rabbia, canto con il pianto per tutti gli operai che sono morti per la mia pianto per tutti i deceduti sul posto di lavoro. La gente strana al mercato grida fuori dal coro, e dai fratelli Cervi a tutti i partigiani, da Davide Cesare a Carlo Giuliani. Fascia e polizia, binomio disgustante, l'antifascismo vero resta quello militante. Fascista quando parla è sinonimi menzogna, fascista per la storia è sinonimi vergogna, fascista basta minchia cerca sulla mente rogna, fascista maledetto ritorna nella fogna. E passa il tempo, cambiano le stagioni, viva sempre peggio da Veltroni a Berlusconi. Cosa ne sarà del nostro domani, se anziché lottare alzeremo le mani. E voi tranquilli a casa che mangiate e bevete, vi ruberanno l'anima e non ve ne accorgerete. Sta tornando il buio anche se non lo vedete, la storia si ripete, sì, la storia si ripete. E cambiarla tocca a noi. Oh oh. Purtroppo restano solo le parole, la storia si ripete e seriamente cambiarla tocca a noi. Affinché non ci siano altri Renati, altri Fausto e Iaio, altri Valerio, altri Dax. Questo pezzo lo dedichiamo alla nostra città, o più o meno a quello che ne rimarrà, in quanto tutti i quartieri del centro storico di Palermo, così come anche i quartieri del centro storico di diverse città d'Italia, per lo più al nord, rischia di trasformarsi totalmente, perché una politica fascista impone il fatto che i quattro emendamenti del nostro centro storico siano totalmente svenduti per 2 milioni di euro a una multinazionale araba denominata Senza Limiti. Non so se qualcuno di voi ha saputo della venuta del sultano a Palermo, che pare che deve portare ricchezza e deve trasformare la città. È tutta una grossa presa per il culo. In realtà il comune di Palermo è in dissesto fortissimo economico e ci sono 3.000 famiglie col culo a terra, che fino a 2 giorni fa sono state sgomberate dalle case popolari allo Zen 2 e che in questo momento, mentre noi ce la cantiamo e balliamo, stanno davanti al comune al freddo. La soluzione per risolvere questa emergenza abitativa, il nostro comune ha proposto dei container che risalgono al 1968, al terremoto del Belice. Sono stati capaci di fare dei lavori di ristrutturazione su dei container, tenendo ancora in totale abbandono, in totale disagio, centinaia, e dico centinaia, di beni confiscati alla mafia. It's wonderful, good luck my baby. Siamo vento che soffia, legna che alimenta, calore che cresce, fuoco che divampa, sangue che bolle, flusso che scorre, tempo che non passa mai, tempo che scorre. Siamo risposta pronta a domanda perenne, siamo dubbio solenne che stimola la mente, siamo notizia lieta per chi vive in paranoia, speranza vera per chi soffre in gattabuia. Siamo legge costituita e poi sabotata, regola istituita e bruscamente sovvertita, vita, lotta, condotta in prima linea. Siamo tradizione che resiste, filo rosso che continua, siamo tutto se tutto è stato detto e fatto, siamo un'occupazione che resiste ad ogni sfratto, come il sole che picchia di brutto. Non saremo niente, ma sapremo essere tutto. Sono tutto quello contro di cui combatto, sono la sfida da cui quotidianamente sono attratto. Di fatto sembra lo stile vincente, sembra siano tutto, ma in fondo sono niente. Siamo tutto se tutto è stato detto e fatto. La rivoluzione oggi cammina sull'asfalto, come il sole che picchia di brutto. Non saremo niente, ma sapremo essere tutto. Oh. Io comincerei a chiamare degli ospiti qui vicino, magari fra tanto che si fa la strada, noi vi dedichiamo una poesia. Oh. Ah, ah. Com'è? Spiego, te mio chi tu conteritto mai, come un netto punico e non ti sei mucchini guai. Mancanza di casa e di lavoro, un poco di rispetto è quello che ti grida un coro. E poca quella gente che lascia le paure, che lotta per il mondo non seguendo procedure. Lotta contro chi diffama la tua lotta sul giornale e fa arrivare la tua voce anche dentro un centro sociale. Bella la Sicilia in mezzo a quel mare, quel mare che sta in mezzo tra il dire e il fare. il sud di quest'isola, con l'immigrazione di quei poveri cristi, con una sensazione, quella di arrivare alla fine del mese e non avere più paura di scappare dal paese dove vivono ogni giorno, dove vivono ogni anno, dove chi dice governo si trasforma in un tiranno. Questa è la poesia che è nata dal mio cuore. Questa è la poesia che unisce musica e parole. Questa è la poesia che vuole far ragionare quella gente che oramai si vuole solo rassegnare. Questa è la poesia che parte dal mio cuore. Questa è la poesia che unisce musica e parole. Questa è la poesia che vuole far ragionare quella gente che oramai si vuole solo rassegnare. Se sei come me, cavo scappare i problemi, tu lo picchi un sai che fare e te vuoi insegnare a ragionare. Non tu t'ava a comandare, picchi ducate e conta, non ricorda che i problemi fanno crescere e si affrontano. La terra che penso e che vivo, un messaggio dopo l'altro tra parole che io scrivo, un pensiero immaginato tra la metrica e le rime, parole giuste che facili sono da capire. La musica è una vibrazione che si può sentire solo se è positivo, il messaggio, messaggio da ascoltare, positivo è quel messaggio che ci vuole liberare. E che ci vuole liberare o no? Ma dici che tu non puoi fare niente, puoi aiutare me, ma la gente è differente, fa finta pure che qui non sia successo niente. È troppo poca quella gente che nel mondo è dipendente. Qui c'è chi dice che in questo mondo soldi facili puoi fare, nella terra molta gente spaccia pure per mangiare. Che significa? Se il mondo resta solo e qui diventa un'abitudine. Sogniamo la terra che vuole cantare, sogniamo la terra che vuole sperare, sogniamo la terra che cerca fortuna, sogniamo la terra che spingi paura, sogniamo la terra rottuna con me, sogniamo la terra, ti spiego perché. Senza mafia è la sua libertà. Questa è la poesia che parte dal mio cuore. Questa è la poesia che unisce musica e parole. Questa è la poesia che vuole far ragionare quella gente che oramai si vuole solo rassegnare. Questa è la poesia che parte dal mio cuore. Questa è la poesia che unisce musica e parole. Questa è la poesia che vuole far ragionare quella gente che oramai si vuole solo rassegnare. Oh oh, la rassegnazione è un suicidio quotidiano. Bologna. Allora. Un attimo. Momento importante. A questo punto concordo il proseguo dello spettacolo con i vari porci e cani che ci stanno qui in mezzo. Teoricamente quello che state per ascoltare è l'ultimo pezzo della Palermo Post. Dopodiché io uno a uno andrò a chiamare un po' di gente. In questo volevo che l'ex Mercato 24 fosse così gentile da regalare il più caloroso degli applausi a questi due ragazzini qua, Zenith Boss. Grazie. Affinché questo non resti soltanto uno slogan. Yo, strano, mi sento strano, ora che con la mente vado, e dove vado? Vado lontano, via da qua, da sta città, palestra di quest'anima che si allena e scorre come un fiume in piena. La rabbia non si attenua, una speranza ingenua mi lega a questa vita e stringe come i polsi una catena. Chi ride a malapena, chi col sorriso ti avvelena e aspetta di infilzarti come un toro in un'arena. Potessi dalla solitudine trarne vantaggio, trovassi le parole per spiegare il mio disagio. Prendo coraggio in questo quadro entusiasmante, sì, però ho perso l'entusiasmo adolescente. Sguardi pesanti, incazzati con la vita, solo che brucia sulla pelle come sale sopra una ferita. La via d'uscita è l'immaginazione, chiudo gli occhi, li riapro e leggo lo stesso copione. La mia generazione persa tra metropoli, seghe mentali e sperma sui portatili, proteste impercettibili, sì, ma vado avanti inseguendo quel sorriso, dimenandomi fra gli pseudo militanti. Picchi stava chi davanti. Macca, cuparre e mangia pane e munsignaria. Cura rere te sbarre, rire avanza, poi sarre fai tia. E cosa grava come a mia, e tu tenete pronto. Ora è la verità che tu scioppia, tia, talia. Vedi come squidavo niente, chi se pi pezzi miei, te cosa siente, sa siente. Per cosa loi te mane, pure tu ne esce. Cu fa l'antagonista e poi se scanta rifascia. Amici, guardate, compagna e giovane. A gente te tale hanno all'occhio, solo se ci parli picciole. E l'esclusione che ha mucciata vince vicoli, crea pericoli, irreparabili. Chi si ribella solo se autorizzato, chi pensa meglio solo che mal accompagnato. Chi lecca il culo il suolo vende allo Stato, ma basta per la merda, non sprecò più fiato. Io respiro e penso mentre scrivo, in testa c'è un progetto che mi fa sentire ancora vivo. Ho il petto squarciato da un animo ribelle che si muove da sé, con i fratelli e le sorelle di sempre accanto in ogni situazione, per ogni pugno chiuso alzato al cielo in manifestazione. Ogni volta che vedo il sole nei vostri occhi, quel bagliore di luce che proiettano vi attacchi, siamo stelle rivolta, eredità raccolta da chi è morto lottando, gridando in vano una svolta. E abbiamo amore da dare che nasce dal basso, l'odio per chi sta in alto cresce di pari passo. E tu che ascolti resti perplesso, la prima lotta si fa a casa, la seconda è con te stesso. E adesso scendi in strada e segna il tuo cammino, cadi, suda e ridi in faccia al destino. La nostra felicità in questa società come militantà non si paga, si strappa. Sentirsi costantemente sotto tiro, a volte sembra finta pure l'aria che respiro. Qui capita che in piazza ci scappa il morto, capita che chi uccide per lo Stato è assolto, e chi picchia con spranghi a coltella ancora per strada cammina, e in galera ci finisce chi per rabbia spacca una vetrina. Ma resistiamo, sì, bisogna farlo, per vendicare Dax, Renato, Auro, Carlo e tutti i nostri morti, anche quelli sul lavoro, affinché ciò che sentiamo non sia solo un nostalgico coro. El pueblo armato jamás será matato. Anche questo purtroppo è solo uno slogan. Ce l'hanno levati troppi di compagni sul selciato. E nell'attesa che tutti i porci si radunano, il mio personale saluto voleva essere questo. Oh, un attimo di silenzio. Ehi. Ci hanno boicottato i microfoni. Stacca la base, Jimmy. Ehi. Jimmy, stacca la base un attimo, perché c'è una cosa seria di cui vorremmo parlare. Jimmy! Grazie, gentilissimo. Allora, noi stamattina siamo venuti qui, abbiamo preso, arrivati alla stazione, due caffè, due cornetti, una tazza di latte. Abbiamo pagato 7,90 euro. Allora, siccome questa cosa ci ha un attimino spiazzato, la nostra risposta è la seguente. Il carretto passava e quell'uomo gridava: che cazzo, sto diventando pazzo, è raddoppiato pure il prezzo di un fottuto tozzo di pane. Che dire del fatto che bisogna sopravvivere o morire, e pensare che solo gli stipendi non possano raddoppiare, no! Tutto costa il doppio perché l'euro ha deciso, a noi tutta la merda, loro c'hanno il paradiso. Nel viso di un bambino leggo quello che gli manca, non vale niente solo perché non c'è soldi in banca. Cerco una soluzione a tutto ma non ci riesco, e resto con le mani in mano nell'attesa di un pretesto che mi dia la rabbia per scrivere sto testo. Del resto non canto per cantare, per niente, cerco di farmi ascoltare da tutta la gente, perché denunciare è l'obiettivo. Io non voglio fischi e applausi, a me basta essere vivo, e sono vivo in questa strana situazione. Qua da Palermo Poste non fa la rivoluzione. C'è ancora una cosa che rimane da dire: la gente strana Poste non vuole disobbedire. Sono stanco di sentire che comanda la mafia, stanco di vedere gente che porta la kefia per moda e che loda un'opposizione nulla. Destro sinistra, tutti fichi pulla in Parlamento della loro politica carta igienica. Fuoco sopra i nazi come sulla croce celtica. Cancello dai miei occhi quell'odiato saluto, braccio teso appeso e sulla mafia ci sputo. Opaco Sud e mo i porci.